avec des yeux d'opale, qui me fascinait, qui me fascinait. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle. Mais non a caso oggi faccio questa trasmissione sui supporti casalinghi dell'immaginario. Non posso dire nello specifico il perché, qual è la circostanza autobiografica per cui la faccio. È che ieri tornai a casa lievemente appesantito di un oggetto che desiderai immediatamente, come quando prendono quelle pulsioni improvvise che uno farebbe un buco sul muro pur di soddisfare il proprio desiderio di possesso. Beh, io ho visto un oggetto in una riunione redazionale e sono tornato a casa avendocelo. E ho capito che comunque qualcosa sarebbe cambiato, anche nella possibilità di poter trasferire nel proprio abitacolo individuale quella sorta di meravigliosa uscita dal tempo che normalmente, o perlomeno le generazioni non proprio giovanissime, stabilivano uscendo, delocalizzando rispetto al luogo abitativo e andando in luoghi dove nel buio, nella penombra, nell'illuminazione, nella realizzazione di un certo tipo di suono e poi andando ancora indietro con i ricordi attraverso una sinestesia di odori, di profumi, di effluvi, ma anche di sensazioni tattili nelle più adolescenziali delle rimembranze, si creava questa possibilità di andare fuori dalla propria vita quotidiana. Insomma, il cinema a casa, chiamiamolo cinema, chiamiamolo come luogo dell'intrattenimento, la visione. Io, avendo 50 anni passati, anzi quasi 60 diciamo, sono più vicino ai 60 che ai 50, ricordo che nella mia fanciullezza questi supporti dell'immaginario erano molto, molto deboli e molto rari. Si andava al cinema, si usciva al cinema, si vedeva Bambi, si vedeva i film di Topolino, si vedevano una volta, poi non si vedevano mai più, quando mai. Si andava poi nei cinema Pidocchietti dopo qualche mese, magari a rivederli. Non è che fosse possibile rivederli continuamente a casa. I miei figli, le prime cassette VHS della Disney che comprai a casa, l'avranno riviste, che ne so, 300 volte l'una. Le sanno a memoria, le sapevano a memoria, adesso sono cresciuti. Quindi, posso dare qualche ricordo, un proiettorino da 8 mm che mi regalò una zia ricca a un Natale. Era fatto di latta, si chiamava Cinemax, funzionava pochissimo, soltanto due bobine con due film, li riguardavo continuamente. Alla fine si ruppero i film e buttai via il Cinemax, lo usai per altre cose, facevo le ombre cinesi, scaldavo le formiche, facevo tutti altri usi impropri che si fanno normalmente. Poi ricordo il Viewmaster era un visorino tridimensionale, c'erano dei cerchietti, dei dischetti di cartone con delle diapositive e girando queste diapositive al buio si vedevano queste cose che sono i pesci nell'acqua. Era meraviglioso, erano dei momenti fantastici. Poi andando avanti, facciamo passare un pacco d'anni, cominciano ad arrivare i primi VHS, siamo a metà degli anni 70. Il VHS era un supporto all'immaginario inferiore rispetto al concorrente Betamax, che era molto meglio, era molto più professionale. Però vinse perché? Perché sui VHS cominciarono a vendere i primi film zozzi. E naturalmente la prima iniziazione scopofila, nel senso che appagava il piacere della vista di indecenze, avveniva attraverso i VHS. I fortunatissimi amici cui genitori avevano i VHS, questi padri tecnologici avevano il VHS, erano quelli che facevano questi festini di visione a casa. Poi andando ancora avanti, il vecchio VHS, qualche anno fa, mi ricordo che scrissi ancora il pezzo e sto rivedendolo, l'ultimo film in VHS è stato fatto nel 2006, prodotto nel 2006, poi il VHS è sparito. Perché? Perché tutti abbiamo la casa piena di cassette, io ancora avevo le cassette incellofanate dell'unità del tempo di Veltroni, che uscivano tutti i film del cinema d'essè italiano. Qualcuno se ne guardava, qualcuno rimaneva lì incellofanato, o ancora con la scritta innominabile del programma che conduceva allora. Poi andando avanti, naturalmente, poi arriva il DVD, poi arriva il DVD Blu-ray, poi arrivano tutti i supporti più recenti. Anche questi però occupano spazio, anche questi in fondo prevedono una sorta di accumulamento, stipamento delle nostre case sempre più anguste, e alla fine arriva l'innominabile, perché non non voglio fare pubblicità impropria, oggetto che ho cominciato a possedere da questa notte, che devo dire porta l'immaginare a casa attraverso un supporto impalpabile, lievemente palpabile, anzi è un oggetto il cui monitor rimane impregnato nelle nostre ditate. Ogni impronta digitale, ogni ditata è un segno di concupiscenza, un segno di possesso, è un accarezzare l'immagine. Quindi ritorniamo comunque a quella sinestesia, a quell'insieme di sensazioni tattili, visive, auditive che noi avevamo nei primi cinema. 800240024. Oggi parliamo dei supporti casalinghi dell'immaginario. Dopo un decennio di dominio di mercato, cala il sipario sul colosso mondiale del videonoleggio. Il capitolo 11, previsto dalla legge fallimentare statunitense, ovvero la bancarotta, è ormai l'unica scelta per la compagnia, che vanta 4.000 negozi in America e oltre 6.500 nel mondo. L'istanza di fallimento è imminente, annunciano gli amministratori di Blockbuster. Le cause del crollo, secondo gli addetti ai lavori, sono da ricercarsi molto più nel cambiamento delle abitudini del pubblico che nell'attuale congiuntura economica. In soldoni, pay per view, internet e pirati del video hanno fatto il grosso e la crisi ha dato il colpo di grazia. E anche Blockbuster chiude. Bruciati 1,1 miliardo di dollari dal 2008, sempre meno gente esce di casa per noleggiare i DVD. Anche Blockbuster aveva ricreato una sorta di anticamera del piacere, ricordo queste abitudini, andiamo a Blockbuster, ci pigliamo due DVD, ci chiudiamo dentro casa, lì si comprava il gelatino schifoso plastificato, si compravano le patatine, le caramelline colorate, i giocattolini, le birre, le bibite gassate, c'era di tutto, i giocarelli, mancavano i baluardi alla sicurezza nella congiunzione, uno a casa si costruiva un immaginario, però un immaginario molto legato, molto datato agli anni 90, tanto che Nanni Moretti nel suo caro diario congelò l'ultima generazione dei transeunti del supporto, dei pendolari della cassetta, li vedeva lì questi signori che negli anni 60 si erano fatti la casetta a Casal Palocco, costretti in ciabatte, in tuta da ginnastica, neghittosi, con il pacchetto di VHS sotto braccio, che andavano e venivano dal noleggio a casa loro. Casal Palocco. Passando accanto a queste case sento tutto un odore di tute indossate al posto dei vestiti, un odore di videocassette, cani in giardino a far la guardia e pizze già pronte dentro scatole di cartone. Ma perché sono venuti qua giù 30 anni fa? Scusi, ma perché siete venuti a abitare qui a Casal Palocco? Ma guardi che verde, la tranquillità. Sì, verde, ma voi sono sicuro una trentina d'anni fa, no? Siete venuti qua 61... 62. Ecco, 30 anni fa a Roma. Era una città meravigliosa. Ma qui è diverso. Sì, è diverso anche ora, ma Roma allora era bellissima, capisce? Questo mi spaventa. Cani dietro i cancelli, videocassette, pantofole. 800240024. È questo che questa mattina vorrei capire. Come abbiamo sostituito questa sorta di vertigine, questo spaesamento, questa capacità di trasportare, far collimare, coincidere, sovrapporre alcuni luoghi dell'immaginario, la casa, il luogo della consuetudine, il luogo in cui tutto l'immaginario è immanentizzato, non possiamo nulla immaginare a casa nostra se non con grandi sforzi di fantasia, e la sala cinematografica, il momento dell'evasione. Quando sovrapponevano attraverso alcuni supporti. Oggi il supporto è sempre meno fisico, sempre meno concreto, è sempre più impalpabile, ma come vi ho detto, palpabile attraverso la possibilità di toccare uno schermo. Ennio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ho ascoltato la sua prefazione prima e volevo intervenire perché io anch'io ho fatto tutto quel percorso lì, cioè praticamente sono passato attraverso il Cinemax con le bobinette, poi quelle lì con le diapositive che si guardavano in 3D, poi ho ancora tutte le cassette di Beltroni delle unità, tre quarti in cellofanate. Naturalmente tutte in cellofanate quelle cassette. Quasi tutte, perché erano delle pizze mostruose. Quindi sono vergini vestali del sapere e dell'immaginario, rimangono lì sigillate, perché è giusto che non siano guardate. Sì, sì, infatti è giusto che rimangano lì, qualcuno l'ha anche guardata. E poi sono passato attraverso... È una produzione sepolcrale di immaginario quella. Esatto, e poi praticamente sono passato al DVD, ora ho una vastissima videoteca di film DVD. Che butterà via naturalmente, lo sa. Che in pratica sì, che probabilmente butterò via. Mi ha interessato l'argomento, perché praticamente io penso di avere qua delle sue età, o magari anche sono passato, perché ho 60 anni anch'io, e quindi praticamente no, io ho fatto ancora tutto, grazie a Dio, tutto quel percorso lì. Prego? No, lo dico ancora, ce n'ho un po' per aver 60 anni. Ecco, sì, vabbè, no, insomma, più o meno, a me manca poco, ma... Ho sentito meno che diceva più. Prima, mi sto avvicinando, quindi mi sto molto avvicinando anch'io. Vabbè, lei tanto i suoi VHS andranno a finire nel cassonetto della Caritas o non so dove, come tutti gli altri supporti, e chissà cosa avverrà dopo. Quello chiediamo, 800 24 0024, è questo? No, 800 24 0024, mi state confondendo. Poi vi dirò anche perché. Però questa mattina io... mi sono avvalso per la prima volta in questa edizione di un valido supporto che sulla questione di cinema ne sa senz'altro più di me. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. E bentornato. Allora, Sansonna, cinefilo, ho capito, generazionale. Tu sei diventato cinefilo, regista, produttore, ideatore di film, perché tuo padre, anche lui, era pieno di piccoli proiettori antiquati. Sì, mio padre aveva il Super 8, ma quello che è interessante è il passaggio dalla visione collettiva, che appunto citavi tu, delle sale cinematografiche, alla parcellizzazione. Già il mondo dei blockbuster, dei VHS, era uno spazio in cui ci si preparava alla visione privata, però almeno si condivideva col gestore della videoteca due parole sul film in questione. C'era un tempo d'attesa del film che usciva al cinema e poi usciva in VHS, quindi c'era il tempo di desiderare, il tempo del desiderio. C'erano vari mesi comunque. Sì, c'era un tempo di immaginarsi, di farsi il proprio film mentale. Adesso c'è una visione solipsistica, solitaria, e anche una parcellizzazione. Uno si vede anche solo la singola scena su YouTube, oppure si scarica il film e lo vede nella solitudine tenebrosa e solitaria, appunto. Quindi diciamo c'è una fase intermedia fra la famiglia che esce, la coppia che esce va al cinema, e la visione che dici te, totalmente. Io ieri mi sono visto un film a letto da solo, capito, al buio, mi stavo lì a tastare questo schermino, mi sentivo pazzo. C'è una fase intermedia, la ricostruzione di alcuni elementi della sala cinematografica. Io ho citato il blockbuster, ma ci si organizzava a casa, si portavano le bottiglione di bibita, e si facevano i popcorn in casa, si creava una situazione simile. E si fumava probabilmente, perché i malati di fumo non andavano più al cinema perché non si poteva più fumare. Certo, da metà degli anni 70 è stato proibito il fumo nei cinema, ma se pensiamo al regista più significativo, preponderante di questa generazione, che è Tarantino, si è formato in una videoteca, ha potuto far collimare il mondo di Godard, di Bergman, con quello di Nino Banfi, che è celebrato come maestro nella recente edizione del Festival di Venezia, perché lavorava in questa videoteca di Manhattan, quindi c'era anche lo spazio del dialogo. Adesso tutto questo si va perdendo, insomma, si perde questo rituale. Tu pensi che sia l'online la vera risposta a tutto questo? Noi abbiamo una realtà nazionale molto deficitaria dal punto di vista della connettività, quello è il vero problema. Che poi noi diciamo, sì, vediamo i film, li scarichiamo, un sistema di streaming autorizzato, basta con la pirateria, ma è un po' difficoltoso poi vederseli in tutte le case, ammesso che passi la cultura, appunto, che deve essere su un supporto comune a cui tutti attingono e non riempire le case di oggetti. Ma a mio parere il cinema resta sempre una dimensione sacra e affascinante, che ti porta in una realtà diversa, e quindi entrare in una sala e avere la possibilità di vedere un film in sala dà una sfumatura in più meravigliosa al cinema stesso. Però tu ricordi, Giuseppe, noi è un anno che parliamo di società, di mondo, di immaginario filtrata attraverso l'occhio del cinema. Tu hai notato che in ogni puntata che facciamo c'è sempre qualcuno che però esce fuori, sposta la sua ottica, il suo ricordo dalla visione del film a ciò che accade attorno. Ricordi? Come? La sala cinematografica, una signora disse che da piccola madre portava la pasta asciutta e gli imboccava i maccheroni mentre guardavano il film. È il lato affascinante, perché deborda la vita fuori dal margine dell'inquadratura, dello schermo, deborda la vita stessa, i frammenti di immaginario legati all'esistenza proprio. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Io voglio raccontare la mia esperienza, che io sono passato da collezionare tonnellate di videocassette, e oltre a quelle dei film d'essai, io ho ancora incelofanate Eisenstein con la famosa corazzata Potionkin. No, forse quello l'ho visto, anzi quello l'ho visto, non so se in quella cassetta o meno, Leni Riefenstahl, cioè mostri sacri del cinema, ma più per il possesso, per il feticcio, e adesso basta, adesso... Ecco, però quando lei li guardava, mi rappresenti l'habitat, il momento, perché la cassetta in sé è qualcosa che è standard, però come veniva messa, in che angolo veniva vista? Io mi ricordo, andava molto di moda nella Perugia Burina, farsi la tavernetta. Appena le persone uscivano dalla maledizione dell'appartamento nel condominio, si facevano la villettina al Colle della Trinità, nei posti ameni, fatta con un geometra alla mano, e la casettina doveva avere la tavernetta. Tavernetta in realtà era un garage riempito di perlinato di legno, compensato di legno, in cui si faceva il caminetto e l'angolo per la televisione. Mentre la televisione, ancora non esistevano gli schermi piatti, un grosso televisore, tutte le casse dello stereo collegate, il divanetto davanti, il secondo frigorifero sotto e il mucchio delle cassette. Poi lì c'era una visione differenziata secondo di chi ci andasse. Gli uomini andavano da soli a vedere le cassette zozze, i bambini andavano a vederci i cartoni animati, e le signore, poi non lo so, ancora non avevo strumenti per capire cosa facessero le signore. Invece lei... Allora, io a Milano non avevo la tavernetta, avevo però una stanza, abitavo ancora con i miei, con mia madre, e comunque avevo mensole con tonnellate di cassette accatastate, una buona parte. Le mensole, quelle squaglie che si mettono con gli stop, naturalmente. Ovviamente. Certo, una tavoletta di compensato e due ferretti che si compravano in ferramenta. Esatto. Orrende, tutte storte. A L, sì. Esatto, tutte storte, perché non sono mai stato il genio del bricolage. La livella però, poi non si comprava, si comprava il trapano tutto al più. Televisione con appunto videoregistratore, i primi stereo hi-fi collegati appunto allo stereo, casse ben disposte, secondo frigorifero. Se adesso le dico una cosa che le toccherà il cuore. Stereo 8. Lo? Stereo 8. No, troppo giovane, vedi. Questo stereo 8 mi manca. Erano quelle cassettone solo audio che si mettono dentro le automobili. Esco un attimo. Sì. Con la musica di Fausto Papetti a ciclo continuo, che erano degli strumenti di scardinamento della virtù, naturalmente. Ce l'aveva mia mamma in una macchina. Questo. Lei è figlio di quelle cassette, probabilmente, più giovane di me. E invece tutto questo non esiste più, ormai totalmente digitale. L'altro giorno mi prestano un film in DVD, quindi vero, eccetera. Non ho messo nel DVD, perché DVD ce l'ho solo ormai in sala. L'ho messo nel computer, l'ho convertito e l'ho rivisto su un Apple TV che ho in sala. Bello che penso che nascerà presto una nuova religione. Noi tutti convertiamo qualcosa. Siamo come dei padri missionari in una terra di selvaggi. Stiamo convertendo. Tesa, insomma, a casa tua pure c'è una conversione in atto. Di folle di VHS? Tuo padre? Sì, mio padre è come un monaco benedettino e sta convertendo i VHS in DVD uno ad uno per appunto creare uno spazio vitale, per non essere soffocato come un videodrom cronenbergiano dalle VHS. Per fate un esame di coscienza, anche voi state convertendo qualcosa probabilmente a casa vostra. Ditelo, così ci sentiremo tutti più buoni, ma dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ho riavvolto la cassetta, l'ho fatta partire e non c'è niente. Sul serio? Questo film non si vede. Anche la vostra fa così. Guarda, le cassette sono tutte vuote. È la TV, Mike. Fammi vedere. Perché fa così? Succede anche quando lo fai tu. Oh. Che hai che non va? Perché fa così quando fai così? Sei magnetizzato! Tu hai cancellato tutti i miei film! Sei stato tu! Dobbiamo trovare altre cassette. Ho un'idea migliore. When you're walking down the street, sì? And you see a little ghost, sì. What you gonna do about Ghostbusters? Che roba è? È il tema di Ghostbusters, la canzone? No. Sono piuttosto sicuro. 800240024. Vedete come lo dico bene adesso il numero? È difficile dire esattamente un numero quando si ha lo sfigmomanometro sul proprio braccio, e colei che è addetta al controllo dei miei parametri vitali dopo le sollevazioni è qui che mi pulsa e spompetta. Quindi è difficile. Adesso ritorniamo all'argomento. 800240024. Molti stanno chiamando. Stiamo parlando dei supporti casalinghi dell'immaginario. Lo facciamo con Giuseppe Sanzon. Giuseppe, cosa è accaduto in questo luogo? Abbiamo ascoltato un pezzo di Be Kind and Rewind di Michel Gondry, che in questa videoteca, appunto vecchio stile, piena di videocassette, vengono smagnetizzate a causa di un incidente tutte le cassette. E quindi c'è una nota sulla fragilità del supporto. Pasolini diceva: scriviamo cinema sulla pellicola che è fragile come le ali delle farfalle. Il VHS è fragilissimo, è facile anche a smagnetizzarsi, e loro rifanno questi film in maniera artigianale con le loro telecamerine e si riappropriano del sogno di chi guarda feticisticamente VHS, che è quello di abitare il film, di riviverlo, di, cioè, questo continuo scorrerlo sulle bobine in realtà è un modo per appropriarsene, per fagocitarlo alla Videodrome, appunto, insomma. Quindi questo era il in realtà producono materiale tarocco rispetto a, sì, al, sì, è tutto fatto con cartone, con stagnole, cioè le tute dei Ghostbusters sono di stagnola e tutto rifatto in biblioteche di quartiere. Quindi fanno un remake casalingo dei film, ma è un po' come quando si giocava da piccoli, si rifacevano le avventure viste al cinema, ci si mascherava alla meno peggio. È un'altra attualizzazione, è un altro passaggio. Il supporto immaginario in realtà è una sorta di chiave che scardina una porta, è la porta di passaggio tra la dimensione del quotidiano, del consueto, e le tante dimensioni che ci sono accanto e molte volte condividiamo con gli altri. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, l'ascolto spesso e volentieri. Allora, devo dire che io sono passato dal VHS al DVD direttamente perché ho 36 anni, quindi non ho visto i supporti precedenti che citava. La cosa che però volevo sottolineare è che nonostante tutto, supporti, posso vedermeli a casa, scaricarmeli da internet i film, io diciamo che una volta ogni 2-3 settimane parto da solo, vado al cinema e mi faccio la serata cinema da solo, perché mia moglie non le piacciono ad esempio i film della Marvel, io li amo tantissimo e quindi mi siedo e mi godo il cinema, che secondo me rimane il numero uno come forma di intrattenimento. Ma io di solito le uscite cinematografiche coniugali le faccio perché è una maniera di rinsaldare i legami di coppia, è una buona occasione per dormire, che con l'età comincio a russare, quindi è imbarazzante, però anche io preferisco andare a vedere il film, il cinema, al cinema, ad andare con i miei figli. Denise. Sì, buongiorno. Oh, finalmente una signora. Tutti gli uomini chiamavano, sembra che le donne non abbiano questa passione per infatti, il supporto. Infatti, anche perché anche le donne piace andare al cinema. Buongiorno, e volevo dirle che c'è mancato in questo periodo estivo, insomma. Volevo dire fornirò che dei supporti anch'io della mia presenza. Volevo dire che noi abbiamo fatto una raccolta di DVD a casa, ma lo spazio è veramente limitato e adesso con una bambina di 4 mesi è anche difficile andare al cinema. Comunque ho trovato un'altra soluzione. Beh, tra poco comincerete con i DVD dei cartoni animati. Infatti, senz'altro. Perché vedi, il vero inquinamento ambientale è fatto dai cartoni animati. La vera massa critica è quando uno ha i figli, comincia, perché il DVD e a volte allora il VHS è un'ottima maniera per tenerli buoni, da un anno a 15 anni è la maniera migliore. Monopolizzano poi tutti. Volevo dire questa cosa, che io prima che nascesse la nostra bambina, quando ero a casa ed ero in maternità, ho trovato un'ottima soluzione, quella di andare nella biblioteca comunale della nostra città, sì, che è fornitissima di DVD, per cui mi portavo a casa dei DVD che purtroppo, per quanto riguarda i film più commerciali, ma saranno tutti film da Umarell, però no? Cosa? Tutti film da Umarell. No, beh, ma ho trovato anche dei film interessanti. Io non avevo mai visto il cinema di Truffaut, perché, cioè, l'ignoranza, ma io non avevo mai visto un film di Truffaut, mi sono fatta proprio tutta la filmografia. E quindi ha riconosciuto la nostra sigla. Sì, infatti. Ma la cosa bella è che comunque con, diciamo, la bibliotecaria noi discutiamo anche per un'ora intera, perché lei naturalmente se l'è visti tutti, per cui mi consiglia, commentiamo, e questa è una cosa piacevolissima. A quale epoca arriva, diciamo, la conoscenza bibliotecaria? Si ferma a un certo punto anche i film contemporanei? No, diciamo che lei snobba un po'. Si ferma ai fantastici anni 50. Okay. Esatto. Va bene, buon divertimento. Signora. Attenzione che potrebbe diventare la tomba dell'immaginario questa frequentazione reiterata. Giuseppe Sansonno. No, un'altra cosa che volevo dire su VHS era che un feticista del VHS mi raccontava di come preferisse vedere i film, certi film, certi poliziotteschi, gli piacesse vederli con lo sgranato, con quei colori magenta tutti sballati che il VHS poi ti porta dopo un po'. Che non a caso Tarantino in Grindhouse riproduce quell'effetto di sgranatura di quei film. Perché la pulizia eccessiva, il Blu-ray, il DVD, è questo, come quando con un restauro si toglie l'anima alle rovine, anche le rovine hanno le loro facce, c'è anche la rovina visiva. È come la chirurgia plastica alla fine. Esatto. Smaltare troppo toglie fascino, la sporcizia, nella sporcizia c'è vita. Infatti io sono convinto che anche in quella direzione si andrà a scavare per ritrovare le vecchie, sane e piacevoli rovine. Come poté Dio indurire il cuore del faraone? Ciao. Che chiamò a raccolta 600 dei suoi carri da Piacere. Guerra per distruggere Mosè e i bambini di Israele. Che bella faccetta che hai. Il Mar Rosso davanti a loro e gli uomini del faraone alle spalle. Ai, è Madelina. E tu? Alfonso. Che nome romantico. Me lo dai un bacio? Dai. No. Oh, ma lo sai che Adelina non l'ha mai pregato nessuno? Qui davanti a Mosè che attraversa il Mar Rosso. Porta male. Ma se ti porto fuori, lontano dagli occhi di Dio, me lo dai un bacio? Il lungo cammino. Ti do anche di più. Ma allora puoi fare l'amore? Certo, perché sono seduto qui, credi che non so fare l'amore. Giuseppe, qua ci sono vari livelli lettori. Cosa parliamo innanzitutto? Poi dico il mio punto di vista. Il testamentario di Marco Ferreri, Nitrato d'Argento, che racconta un po' la storia del cinema, appunto come sala negli anni, dagli albori fino appunto agli anni 90, come abitato da questi popoli, da queste folle che entrano, che vivono una vita parallela a quella che scorre sullo schermo, cioè dall'epica di Mosè alla frore, del contatto, dell'adescamento, il Refugio un Peccatorum, dove adescare. Aspetta, uno dei luoghi di adescamento adolescenziale più consueti era il cinema Pidocchietti. Io ricordo il cinema Pavone di Perugia, che è un bel cinema teatro al centro. Il posto più ambito naturalmente era il palchetto. Il rivestimento in velluto bordeaux del palchetto del cinema Pavone non era consigliabile poi alle famiglie che magari andavano il pomeriggio a guardare i film con i cartoni animati, per le stratificazioni di escrescenze amatorie che erano date appunto dai fidanzatini che l'avevano frequentato magari la sera prima. Quindi accadeva anche questo al cinema, non può riaccadere nei luoghi dell'immaginario ricostruiti a casa. Eh sì, perché appunto, come dicevi tu, c'erano tutti, anche gli arredi rossi eccitavano la passione, l'immaginazione, e poi c'era questo essere avvolti in una penombra, in una dimensione altra in cui poteva accadere tutto, cioè il cinema diventava anche qualcosa che cullava l'erotismo, in fondo, anche senza interessarsi a quella trama, a ciò che accadeva sul grande schermo, si veniva avvolti da queste voci, da queste musiche, e quindi tutto favoriva l'incontro. Tony, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Volevo raccontare prima di tutto un ricordo. Io praticamente il ricordo del VHS che ho è a casa di mio nonno, col televisore in un angolo e il videoregistratore sotto che è pronto a partire, e i 5 minuti che ci volevano per riuscire a togliere la carta trasparente dalla videocassetta. Sì, era quasi impossibile in effetti. Era quasi una sfida praticamente, che puntualmente toccava a noi che eravamo i più piccoli. Infatti sulle cassette di Veltroni di Roma Città Aperta nessuno ha avuto il coraggio di farlo, sono rimaste in tonze. E poi una curiosità, adesso siamo passati al DVD, no? La prima cosa che sento anche parlando con gli amici, no? Appena il DVD in mano, la cosa più urgente è farsene subito una copia. Perché non si sa mai, si può rigare, succede questo, succede quello. La prima cosa che fai è una copia sul computer o un altro DVD per essere tranquillo di avercelo nel tempo. Cosa che invece col VHS era una paura che non ti veniva neanche lontanamente. Sì, perché oggi abbiamo questa sorta di smania teocratica della conversione. Dobbiamo riconvertirlo, magari ci facciamo un DVX perché ci possiamo vedere in un'altra maniera, possiamo interscambiarlo, metterlo dentro i mule, prenderci altri film e via dicendo. C'è una sorta di missione, quasi una nuova religione. Vogliamo essere padroni talmente del nostro immaginario che riconvertiamo, poliamo, moltiplichiamo, come se fossimo noi i grandi demiurghi di una nuova civilizzazione. E poi spesso non vediamo, perché in realtà uno scarica da internet, accumula, converte DVD e poi non vede, perché tutte queste ore di vita poi non c'è, passa più tempo a convertire che poi a vedere, mentre il VHS una volta acquistato veniva rivisto, anche avevi 2 giorni per affittarlo e te lo vedevi 10 volte perché dovevi usurarlo, dovevi appropriartene. C'è proprio una cambiato. Questa è la sorte degli hard disk che si collegano via USB. La gente è piena di hard disk, c'ho 300 film, l'ho scaricati, quando c'ho tempo li guardo, ma rimangono tutti lì alla fine. L'eternità forse. Noi salviamo per l'eternità. Massimo, ancora Massimo solo. Massimo. Buongiorno, dottor Nicoletti. Io sono, avendo girato la boia dei 60, mi sembra di essere un po' un troglodita rispetto a quelle che sono le modernità. Io sono stato un patito del grande schermo da piccolo. È perugino anche lei però, vero? Penso che dalla voce si sente. Sì. È un po' di donca. Lei ha citato il Pavone, quindi è stato un po' il... Quindi lei è andato anche lei a pomiciare nel palchetto del Pavone? Ma diciamo, ecco, abbiamo cercato sempre che la tappezzeria rossa non facesse diventare anche arde l'incontro. Comunque siamo andati a pomiciare come tutti quanti. Quindi lo dicevo, il cinema per la nostra generazione aveva il fascino di quelle sale fumodelle dove il fumo, eccetera, eccetera. Mettevamo sempre a repentaglio le nostre cervicali perché se c'era qualcuno davanti bisognava cercare. Comunque al di là di questo, il VHS... Io che sono un partito del bianco e nero, per me è stata una cosa cosa eccezionale. Ho odiato i film rimasterizzati a colori, quindi ho addirittura alcuni film che erano delle nonne con Assia Norris, cose del genere. E obiettivamente è un capitale non tanto monetario ma di storia che è difficile abbandonare e farlo impolverare, anche perché io non è che voglio, torno a ripetere, non è che voglio essere un troglodita, però la modernità qualche volta... Ma la modernità lo sa cosa impone, qual è il problema? Impone una conversione continua. Lei sui VHS dovrà comunque convertirli, come sta facendo il padre di Sanson. Li metterà in un altro supporto, ma a tempo che ha finito l'operazione di conversione, già ci sarà gli albori di una nuova religione che avrà un altro nome, dovrà riconvertire tutto di nuovo. A me piace questo avvicendamento metafisico, non dà la stanchezza comunque del culto persistente. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagages. Buongiorno. Ah, Donald, allora da oggi siamo colleghi. Sì, ma non credo che ci faremo concorrenza, signor Jordan. Lei cerca spettatore. Io? Anima. Mm-hmm. Vedo che le anime pagano come gli spettatori, eh. Vabbè. Io la critica per il film del prete non la scriverò mai. Però questo Papa è furbo. Ha fatto aprire 5.000 sale cinematografiche parrocchiali in tutta Italia. E tu pensa che affari? In termini economici, ma anche in termini di aggregazione di giovani intorno alla chiesa. Ma sì, sì, è come quando noi andavamo all'oratorio a giocare a pallone. Del resto il cinematografo si è ispirato alla chiesa. Un luogo magico con colonne, marmi, cupole, dove la gente poteva riunirsi con la promessa di un'altra vita, diversa da quella quotidiana. Sì, che i film sono una specie di al di là. Ma vedi Giuseppe Sanson, che corrisponde a quello che stavo intuendo noi questa mattina. In effetti, perché io ho studiato le Salesiani, figurati, so bene cosa sia il Cineforum. La proiezione di Due Sancolotti veniva anche quella censurata manualmente dal prete che mette la mano davanti al proiettore. Non c'era nulla, magari, cioè, Ciccio e Franco baciavano una cortigiana, qualcosa del genere. Però erano molto fissati i salesiani col cinema, il Cineforum. Aveva un senso. Il cinema distraeva i ragazzi comunque dalle automacerazioni violente, ma allo stesso tempo permetteva di aggregare. Sì, andava controllato, questa era la cosa. Certo, l'impatto fondamentale, si rendevano conto che era un concorrente, perché la chiesa è il massimo della rappresentazione, il cinema appunto collide, come viene citato in questo film, che è Splendor di Ettore Scola, cioè questo, c'è un'analogia forte, si promette un al di là, si promette un'uscita, un'estasi, un'uscita dal quotidiano, e per giunta non c'è l'inferno, poi si ritorna alla propria quotidianità. Ma sai perché? Scusa, io penso a Giuseppe, perché qua la corrisponde il Cineforum col periodo della realizzazione delle chiese oscene. Negli anni 60 hanno cominciato a fare le chiese moderne. Le chiese avevano comunque una loro caratteristica, un luogo che doveva comunque istigare alla trascendenza. L'iconografia delle chiese era il vero cinema, perché le mistiche avevano soltanto rappresentazioni legate alla storia sacra. Il loro cinema erano i quadri che erano nelle chiese, erano cristi, madonne, santi. E quindi nelle loro visioni avevano questa sorta di unione mistica con cristi, madonne, santi. Quando le chiese sono diventate squallide, brutte, tristi, con le chitarre fatte dai geometri anni 60 che facevano una sorta di loculi, chiamavano chiese, hanno capito giustamente, più illuminati tra i preti, che bisognava darsi da fare col cinema. Bisogna recuperare. Infatti la Chiesa assimila anche film di un eversivo tagliente come Buñuel, la San Paolo ha ridato i suoi film, o di Bresson, che è comunque un cristiano molto particolare. Insomma, c'è il controllo. Poi tu parlavi delle chiese, poi la degenerazione delle chiese, poi con le archistar, con la marcescenza lisergica delle archistar, ha creato delle chiese, c'è una Bari, c'è la chiesa di Goldrick, che sembrava ispirata proprio all'omonimo cartone animato. C'era anche un eccesso che poi si recuperava dal cinema, dal mondo del cartone animato, si recuperavano chiese assurde. Luigi, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo dare un contributo da un altro punto di vista. Io ho 33 anni e ho cominciato a lavorare a 20 anni in una ditta che produceva VHS, quindi io l'ho vista questa cosa dall'altro lato della barricata. Quindi mi ricordo la transizione tra l'era delle VHS e l'era dei DVD, e si passava proprio da queste sale di duplicazione dove c'erano 600-700 videoregistratori messi in serie, con un film che partiva e 600-700 registrazioni contemporanee di queste VHS, l'arte di scaricare e ricaricare queste pile di cassette altissime, una cosa da giocolieri proprio, magazzini enormi per stipare queste bancali e bancali di VHS. Beh, occupavano tanto spazio. Tantissimo, destinate magari all'editoria, appunto i film di Veltroni, quello che dicevate voi, ma... Poi si rompevano, perché VHS un po' si rompevano, si rompeva quel... Si rompevano, venivano, molte persone non sanno che venivano riciclate, magari... Guardi, lo so, guardi, posso dirle un episodio. Comprai una volta in un grande magazzino libro con allegata cassetta di cartoni animati. Dopo 30 secondi di cartone animato cominciò una zozzata maialesca da far impallidire le nonne che stavano in casa. Ma cosa facevano? Si riciclavano le cassette zozze? Mi spiego anche perché, i resi, i non venduti praticamente, i resi, venivano riportati, ricomprati ad un prezzo minore, e poi in teoria dovevano essere smagnetizzate, c'era un apparecchio. Ma fu una cosa tragica, guarda, sembra una battuta, se la racconto, se la inventate, è vero. No, ricordo Natale con tutti i nonni, gli zii. Adesso non mi ricordo, c'era il libro con la favola. Tutti i bambini, fortuna, erano talmente piccoli da non capire la differenza, erano proprio piccolini. Comincia, non so, adesso non ricordo bene, Cappuccetto Rosso, poi appare la principessa sul pisello, ma non era un cartone animato. Ma guardi, questo era il nostro incubo ricorrente, perché noi facevamo un po' di tutto, no? Quindi sia i film, sia che ne so, le videocassette, andavano le videocassette sportive, sia ovviamente le zozzate, come dice lei, sia i cartoni animati. E si dovevano passare queste cassette dentro degli smagnetizzatori. Che ci voleva tanto tempo, si guadagnava tempo. Ci voleva tanto tempo, quindi a volte non si faceva sta cosa, però bisognava poi ricontrollarle manualmente una a una. E ci sta, tra 600-700 videoregistratori, perché succedeva quello che ha visto lei? Perché quando si registrava un cartone animato su un porno, diciamo così, se il videoregistratore numero 351 a un certo punto si fermava, la registrazione non succedeva e facevano ripartire. Ma penso, no, guarda, lei, io questa cosa pensavo di essermela sognata quasi, perché poi buttammo via tutto, abbiamo dato il cordiale alle nonne, la cosa è poi dimenticata. Era un incubo ricorrente quella cosa, che potesse succedere quella cosa era un incubo ricorrente, me lo ricordo benissimo. Fortunatamente dove ho lavorato io non è mai successo, però so che è successo, come dice lei, poi lei è un testimone di questa cosa. No, mi vergognavo a raccontarli, adesso penseranno che dico una cazzata, ma se lei mi conferma che può succedere, sono d'accordo. Grazie, Giuseppe Sansonna, su queste stratificazioni malandrine. Affascinante, la macchina che rimonta e rimescola generi vari, e confonde gli scaffali, questo è affascinante. È bello che il nostro immaginario sia rimaneggiato da macchine e in maniera random ci riforniscono quello che sono i nostri sogni, i nostri pensieri, le nostre idee, riviste attraverso la loro memoria. Ci sentiamo domani. Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.